Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione, sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Io ho fatto il militare. Sono una delle poche persone della mia generazione che ancora ha fatto il militare. Qualche anno dopo, poi, è finita la leva obbligatoria e nessuno ha fatto più il militare. Io però, avendo fatto il militare, ho sempre osservato con attenzione e curiosità le persone che vestono con abiti di foggia militare. Cioè che ho portato la tuta mimetica, ho portato gli scarponi tattici, ho messo il berretto verde. Insomma, so quanto quel tipo di vestiti pesano addosso perché corrispondono all'addestramento, alla fatica, alla puzza di caserma. Insomma, non è roba che te la metti volentieri addosso. Eppure, in maniera ininterrotta negli ultimi decenni ci sono persone che continuano a vestirsi con abiti mimetici, abiti con foggia militare. Il signore accanto a me è l'esempio più classico: pantaloni larghi mimetici, scarpetta tattica da deserto, magliettina verde, cappellino militare con sopra stemma dei Marines. Insomma, è un maniaco della vita militare. Chissà se lui l'ha fatto veramente il militare. Rifaresti anche oggi il servizio militare? Sì, lo rifarei anche oggi. Sì. Io l'ho fatto, nel marzo del 98. Vabbè, io sono magrolino, piccolino, e quindi avevo paura che non mi prendevano. Invece t'hanno preso. Sono andato in palestra un anno e mezzo prima, ho fatto quasi 2 anni di palestra perché avevo paura che ero troppo magro. Invece poi quando ho fatto la vista ero tutto perfetto, perché in realtà... Cioè, il contrario di quello che ho fatto io, che ho finto di ammalarmi, ho simulato malattie, cioè, e poi l'ho fatto lo stesso. Io ho fatto il contrario. Sì, però tanto l'abbiamo fatto lo stesso tutti e due. Ho fatto domande per i paracadutisti. Il CAR l'ho fatto nei paracadutisti, allora era nel 98, il CAR lo si faceva alla caserma dei Lupi di Toscana. Ecco, quella, l'unica sfortuna è stata che dal 1 gennaio 98 non era più di leva il servizio di paracadutista, dovevi mettere firma. Allora lì, quando sei entrato il primo giorno in caserma, ti facevano sedere uno a destra, uno a sinistra, uno a destra, uno a sinistra. Poi è arrivato il comandante e ha detto: ragazzi, da 2 mesi è cambiata la legge, chi è seduto a sinistra andrà a fare il paracadutista, chi è seduto a destra farà il mese, farà il CAR, e poi lo manderemo via. E io ero dall'altra parte, e quella è stata una sfortuna. Durante il mese c'era chi era dall'altra parte che non voleva, e invece di noi che andavamo a chiedere il rapporto non c'è stato verso: o mettevi firma 3 anni oppure... Tre anni erano troppi per te? 3 anni non è che erano troppi, perché io lì stavo da Dio. Non volevo stare sotto, 3 anni poi vai in missione. Io andare in missione per l'esercito sotto la NATO, quando magari in tante missioni io... Cioè, beh, non condividevi Non condividevo assolutamente la politica, e quindi ho detto no. Già se era dopo hanno fatto la ferma annuale, già lì era diverso, no? Beh, però, parlavi del periodo di Naia, che la Naia comunque l'hai fatta, com'è stata? Sì, la Naia, lì in caserma era stupendo. Io ho fatto lì il paracadutista, cioè il carne e i paracadutisti. Poi dopo noi ci hanno spedito a fare le guardie carcerarie. Non c'entra niente, però è stata una gran bella esperienza. Oddio, abbiamo fatto 2 mesi a Sulmona a fare il corso di guardia carceraria, e lì diciamo che era uno schifo, perché noi eravamo in 30 che ci hanno preso, ci hanno messo sul treno a Firenze e dovevamo arrivare a Sulmona. Tra l'altro ci siamo persi, siamo arrivati il giorno dopo, sono venuti a prenderci a Foligno in caserma, perché poi lì non c'erano più treni, un casino. Però lì eravamo visti come i paracadutisti, quelli da prendere in giro, insomma. Eravate bullizzati dalle guardie carcerarie? No, non dalle guardie carcerarie, da quelli lì, da quella caserma, che era una caserma di che poi sostanzialmente era una caserma di fanteria, però lì ti facevano il corso di guardia carceraria. Perché ti hanno, pensavano che ti hanno... di essere i migliori della fanteria. Era, vabbè, quello è sempre voi. Così, fra ogni corpo, no, c'è sempre rivalità, quello dove andare. E allora lì è stato un po' casino. E poi invece ho fatto 6 mesi in carcere a Peschiera, che sì, non è come fare, oddio, il militare, però è stata una gran bella esperienza, perché comunque una trentina di noi faceva andare avanti tutto il carcere. Cioè tu sei stato 3 mesi in un carcere, per te è stata una bella esperienza. Adesso devi farmi capire come mai, però, perché eri a tutti gli effetti un detenuto pure te, anche se riguardi a carcerare. Stavi dentro il carcere anche te. Un detenuto che però, diciamo che ha provato anche a evadere. In che senso? Nel senso, allora lì, insomma, in 30 facevi andare un carcere e quindi, cioè, c'era sempre da fare. Licenze ne abbiamo viste ben poche noi, di licenze da andare a casa. Però una volta c'era, insomma, volevamo uscire in 3-4 di noi e lì dovevi falsificare registri, corrompere guardie per uscire dal carcere, dalla caserma. Successivamente, e poi siamo andati a ballare, vabbè, e siamo rientrati poi la mattina, perché poi dopo lì c'era anche la rivalità dentro la caserma, c'era quello che si faceva i fatti suoi e c'era quello che qualsiasi cosa andava a fare rapporto al tenente, cioè il leccaculo del tenente. Vabbè, insomma, però parlami più di quello. Tu alla fine sorvegliavi altre persone carcerate, questo era il tuo mestiere? Sì, noi, oddio, lì in carcere c'erano quelli della Uno Bianca, c'era il colonnello Delfino, e qui c'erano anche personaggi, diciamo, importanti. Il colonnello Delfino, che aveva tentato il suicidio lì in carcere, che c'era di guardia uno che era incamerato insieme a me, gli ha tirato fuori da lì, cioè gli ha salvato la vita proprio, no? perché stava morendo, sì. Sì, stava tirando le cappucciate. Noi siamo arrivati, non eravamo ancora lì, siamo arrivati 15 giorni dopo, però sul muro c'erano ancora i segni del suo sangue, che poi nella cella del colonnello Delfino hanno messo uno dei fratelli Savi, quello della Uno Bianca. Quella della banda della Uno Bianca. Sì. E raccontami, ma tu queste persone le vedevi, ci parlavi, avevi un rapporto con loro? Sì, ma anzi, tra l'altro io ero in fureria detenuti, quindi io, tipo, per quegli elementi lì dovevo ascoltare tutte le telefonate, quando chiamavano la mamma, che era lì, era veramente uno strazio, quando parlavano, chiamavano l'avvocato. E tu dovevi assistere a tutte le telefonate? Sì, c'erano tutti. Noi facevamo tutto e chi era in fureria detenuti, c'erano quelli che avevano dei permessi, 2 chiamate al mese per questo, 1 chiamata con l'avvocato, 1 colloquio, tu dovevi assistere. Tra l'altro poi sei sempre in una caserma, quindi, cioè, alla fine dei conti noi eravamo ragazzini e una volta io segno di un detenuto che poteva fare il colloquio, il tenente mi guarda e fa: no, lui non può fare, ne ho già fatti 2, un casino della Madonna. Io guardo tutto il registro e mi sono accorto che da lì ai mesi indietro anche gli altri scaglioni abbiamo dovuto correggere tutto, perché c'erano dentro di quelle robe che se uno guardava sbagliato, poteva fare 2 colloqui e ne aveva fatti 5. Ma perché non c'era controllo, i ragazzi? Ma perché poi, cioè, giustamente tu fai andare un carcere a ragazzino, cioè noi sì, lì ti facevi un culo tanto, però poi uscivi la sera e insomma quindi avevate diciamo degli incarichi molto importanti. Tu quanti anni avevi al tempo? 18 anni, 19. Quindi, quindi è un poco più che un ragazzino, cioè una responsabilità molto grossa sulle spalle, poi temporanea. Ma sì, anche perché, cioè, lì dentro lì c'era la caserma fuori normale e dentro il carcere un tenente e un sottotenente e un maresciallo, cioè, e poi il resto tutti noi. Quindi. Ma c'erano anche, diciamo, dei servizi particolarmente impegnativi, cioè fare i controlli nelle celle, scortare i detenuti? Notte, allora lì c'erano tante regole, però dopo anche lì la vita del carcere militare soprattutto, perché il carcere militare all'inizio c'erano solo 3 ragazzi disertori che poi erano spediti a Roma, ma il resto erano tutti poliziotti, finanzieri, militari, gente, sì, così. Membri, diciamo, ex ufficiali dello Stato che in realtà scontavano. Certo. Quindi anche lì dovevi anche riuscire a destreggiarti, no? Perché loro avevano delle regole, però anche noi avevamo le nostre regole e loro le sapevano meglio di noi, quello che i nostri doveri, i nostri diritti. Yeah. si avvertono i signori passeggeri che il treno effettuerà una breve sosta per le informazioni sul traffico. Restate in ascolto. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta... Il treno va. I viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Ad esempio ce n'era uno che a pranzo poteva bere solo mezzo brick di vino. Allora questo non ti dava nessun fastidio, non ti dava, però ti chiedeva il brick intero di vino. Cioè quelli che gli danno la legua, tu puoi bere qualsiasi sgarro, poi andava a riferirlo al tenente e il tenente ti faceva rapporto, casini. Quando eravamo il gruppetto di noi un po' più così, vuoi bere il vino? Tanto io lo so, non rompi le balle. Bevi il vino, ne vuoi anche un altro, uno e mezzo, io te lo do, perché io so che se ti do un bricco e mezzo di vino, tu non rompi le balle. Se io te ne do mezzo, come dice la regola, comunque, è un casino, non finisce più, e dopo alla fine passi sempre dalla parte del torto, perché poi comunque sei comunque il ragazzino, un qualcosa di sbagliato te lo trovano, e insomma non era facilissimo destreggiarsi in quell'ambiente lì. Beh, soprattutto perché le persone, diciamo, che avevano una preparazione diversa, non erano detenuti comuni, erano tutti appunto per quello, poliziotti, sì. Persone cioè, la legge militari, la conoscevano meglio di te, certo, sì. Hai fatto il corso, c'ho il librettino, però ragazzi, il confronto eri un dilettante, loro ma tu eri armato, sì, eri pure armato. No. Quindi non avendo nessuno. Quindi all'esterno c'erano le guardie armate che però facevano parte della caserma, ma noi dentro non avevamo nessun altro. Quindi un compito più che altro amministrativo era il tuo. Sì. E non ti dava nessun senso, strano, in fondo erano persone detenute, avevi a che fare con detenuti, eri il loro guardiano a tutti gli effetti. Cioè, se uno non è psicologicamente preparato non è facilissimo, no? Sì, però oddio. Dopo sono detenuti particolari, vedi, c'è quello della Uno Bianca, ce n'era uno che era accusato di banda armata, sovversiva, quindi... Beh, gente che ha sparato, non è che gente che... Sì, però sono storie, cioè, capisci, cioè non è il... Non sono ladri di polli. Non è il tossico, il ladri, che comunque, cioè sai, allora... Tu dici è più facile con queste persone. Poi averci a che fare, come si comportano, come posso dirti, è interessante averci a che fare. Vabbè, certo, no? Ognuno di loro fa parte di una storia, anche se è una storia nera, ma fa parte di una storia comunque. Certo. Infatti, quello. Ti è mai capitato di risentire, rivedere qualcuno che poi magari era uscito quando hai finito questa esperienza? Qualcuno dei detenuti? Sì. No. È chiuso, no, tutto, no. Finita. Non fa parte di una parentesi chiusa della tua vita. No, anche perché cioè poi con alcuni detenuti non legavi proprio. Buongiorno, buonasera. Tipo con quelli con cui l'Alberto Savi lì era uno di quelli con cui comunque ho legato di più, ma tanto anche da fargli domande personali. Ma tu come sei arrivato a fare? E lui cosa rispondeva? Ma lui molto sinceramente ha risposto: guarda, sai, è iniziato tutto per scherzo, inizio con uno scherzo, proviamo a fare una rapina. E dopo da lì vedi i soldi qua, la sua giù, inizi a entrare in un vortice che dopo non finisci più e infatti da una parte meno male che sia finita, perché dopo non riesci più a finire, no? Però ecco, capito, con lui, a parte che impeccabile dentro lì. Vabbè, gente che sapeva che già rischiava molto, gli conviene a starsene buoni, che discorso, certo. E comunque, ecco, non l'ho mai più, no, mai neanche. Senti, invece la sera quando uscivate, come facevate a staccare da un rapporto del genere? Uscivi, magari andavi a ballare, cercavi ragazze, come conciliavi queste due vite? Beh, allora, sempre la vita, quando ho fatto il car uscivi ed eri a Firenze, quindi però facevi il figo col basco Bordeaux, riparavi, via dicendo, figurati. Certo. Allora sì, ma quando facevi la guardia carceraria un po' meno forse. No, però comunque, ma sì, ma non è lì, riapeschi. A parte che allora c'era un nostro compagno che era di Ferrara e quindi molto molto spesso andavamo, poi io avevo un di Lecco, quindi gli ultimi mesi eravamo lì, arrivavo in caserma in macchina, insomma. E andavamo a Ferrara, anche quando avevo le licenze, così non venivo a casa. Andavi a Ferrara da questo mio amico che preparava delle gran tavolate con familiari e tutto, e giravamo un po' tutte le città del Veneto, insomma. E invece lì a Peschiera, beh, il nostro divertimento, diciamo, era bere vecchia Romagna e Coca-Cola. Beh, ragazzi, ben raffinato, il cognac, quello delle osterie, e la Coca-Cola, certo, pochi soldi. Dopo una giornata dura devi... Senti, invece donne niente, è una cosa impossibile. No, anche... Ah, c'erano? No, donne dove? In caserma? No, fuori, che dico, in caserma non so, c'era, no, in caserma, non no, credo. No, sì, anzi, tipo a Firenze ho conosciuto una ragazza che ho provato anche andare a trovarla durante le licenze, ma poi anche in giro lì, no. Il bello anche di quel carcere lì che non erano tanti detenuti, però aveva altri tre piani sotto di celle. Vuote. A cui in teoria non potevi accedere. E tu sei mai andato a vedere invece, a dare un'occhiata? Ovviamente sì. E cosa c'era? No, alcune celle erano vuote. In un'altra ala c'era uno studio odontoiatrico con i macchinari intatti, perfetti. Per i carcerati, tutti nuovi, mai usati. Sì, che nessuno ha avuto mal di denti. No, era, si vede che, ma che ne so, se magari qualche finanziamento avranno, che ne so, l'hanno fatto, poi evidentemente non c'era più bisogno. Buttati là, ma nuovi, intatti. E c'era un dentista, vabbè, il dentista in carcere. E poi basta. Vabbè. E le altre sale che c'era, le visitate bene? Le altre sale le chiuse? Sì, no, sotto erano tutte, beh, c'era la cella di isolamento. E com'era, con tavolaccio, come si vede nei film? No, era tutta imbottita di gomma piuma. Ah, perché non potessero sbattere la testa sul muro. Era molto più piccola e tutta imbottita di uno strato spessissimo di gomma. Perché non si facessero male se si, per l'autolesionismo, sì. Capito? Sì. Okay. Anche se, ma penso che quella lì sia servita più per i ragazzi, i disertori, ma perché per paura che si facessero del male, vabbè, quello succede. Perché gli altri, poi mi ricordo di uno. Allora, vabbè, eravamo noi in licenza, eravamo in giro di Peschiera, andiamo in un bar, c'era sto ragazzo, uomo, prende, si mette sul tavolo, tira fuori una riga di cocaina, davanti a tutti, eh. È un carcerato questo? No, era lì, con sta valigia, e diciamo, ma cosa sta facendo questo qua? Rientriamo in caserma, quello la sera suona, praticamente era un poliziotto che... aveva, non so, doveva entrare in carcere, insomma. E tra l'altro avevamo guardato il traffico internazionale stupefacenti. Ah, si faceva l'ultima pista prima di entrare. L'ultima si vede prima di... Si sparava l'ultima pista prima di entrare dentro. Lo so. Avrà chiuso in bellezza per lui, poi, per lei. In bellezza. Vabbè, dimmi una cosa che a te è servito fare il militare, che poi nella vita ti è stato utile, cioè, vedi, per fortuna l'ho imparato dal militare. Avere l'ordine nella vita. Vabbè, se hai imparato l'ordine e la disciplina, che sono cose che non avresti mai imparato. Se ti servono nella vita, buon per te. Ti saluto, ciao, buon viaggio, a presto, alla prossima. Ciao Gianluca, ciao. I am a lady in Spain. I'll sing a haunting refrain. I am a lady from Mars. And I can unscrew the star. I am in. thinking of red woolen gloves. I can't do anything I want to. I can't do anything I want, anything my heart tells me. Informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco. Il treno va. Si ricorda ai signori passeggeri di non lasciare incustoditi i propri bagagli durante il viaggio. Oggi mi ritengo fortunato. È la seconda volta nel giro di poche settimane che assisto in diretta alla riparazione di una tubatura che è saltata in uno dei gabinetti del treno. Voi direte, ma non c'è mai successo, figuriamoci. Al massimo nel gabinetto entra il signore con la borsettina, dà una pulita e se ne va. No, a me è successo due volte di seguito che scoppiasse il tubo di un gabinetto del treno in cui viaggiavo. E ogni volta era lo stesso idraulico. E siccome l'altra volta ha riempito delle sue avventure col tubo in mano, in un senso vero e in un senso traslato, la mia trasmissione, questa volta non posso fare a meno di chiedergli qual è il seguito delle sue avventure. Come va la manutenzione caldaie? Ci siamo capiti? Guarda, ti dico, in questo periodo male perché io durante un giorno devo correre e fare anche 10 interventi. E quindi non puoi occuparti delle caldaie? Guarda, sì, no, a meno che non si faccia proprio una cosa... Deve essere una manutenzione veloce. Sì, no, ma non c'è tempo perché veramente siamo in... Però... Facciamo ecco, le richieste telefoniche notturne di manutenzione caldaia, e ci siamo capiti. In questo periodo sono più frequenti o vista la stagione che pensano, dice, ma in questo momento lui ce la fa veramente con le caldaie, quindi stiamocene tranquille, o no? Sì, allora ti dico... Rallentano che, in questo periodo. Ti dico che ho notato stranamente che l'autunno è stato molto prolifico da quel punto di vista. Perché l'estate è andata male, tornano dopo l'estate, c'è ancora un po' d'abbronzatura, un po' di aria salmastra, un po' di dieta ben fatta, un po' di voglia di mare, capito? Gli uomini di solito si rimettono a lavorare come bestie. Sì. E stanno lì, si annoiano, sì. Capito? Sai perché diciamo in autunno, ecco, settembre, ottobre, riprende la vita, diciamo, quella normale, tra virgolette, perché chi torna dalle ferie, dalle vacanze... E ritorna l'abitudine, la monotonia del quotidiano, certo. I bambini che devono correre a scuola, la tristezza, certo. E quindi ritorna. E diciamo... quindi sottura il sifone, bisogna trovare qualcuno che lo stura, detto in parole povere. Lo so. È così, è triste, diciamo. Ma è così. Senti, ma diciamo. A questo punto, senza fare nomi, naturalmente, circostanze, mi fai una tipologia delle caldaie da revisionare? Generalmente, ecco, divisa per classe sociale, per età, per prestanza allora, fisica. Allora, sì, ho capito. Allora, guarda, ti dico... Modello di caldaia numero uno, cominciamo così. Sì, ti dico, allora, andiamo per età. Io ti dico, le giovani, tranne alcuni casi, ma non sono propense a questo tipo di cose, perché... perché adesso va di moda, sai, il social, no? E i giovani, anche io sono giovane, però non mi metto in quella fascia d'età. Io parlo quelli che vanno proprio dai 20 anni da in su, si corteggiano online praticamente, si corteggiano. Tu dici non c'hanno bisogno dell'idraulico, lo cercano. No, è un'altra categoria proprio di corteggiamento. Non esiste più, diciamo, il contatto fisico. Quindi tu vai a cercare nella zona, diciamo, ancora non digitalmente avanzata. Guarda, ti dico, non è così, perché poi salendo d'età si va verso la, diciamo, la trentina, che è già diverso. Io parlo le ragazze, i ragazzi che sono nati, ecco, fine anni 80 come me. Ancora hanno quella cosa, diciamo, del vedersi, dell'incontrarsi, e quindi diciamo che Ma tu mi stai facendo sociologia adesso, val dunque, stai girandoci intorno, perdi tempo, come quando chiami l'idraulico che sta due ore sotto la lavandina e fa finta di far qualcosa, dai. No, vabbè, circostanze, okay, allora, concrete. Andiamo al punto. Sì, effettivamente è così. Allora, si sale, più si sale, più c'è feeling tra l'idraulico e i clienti, sicuramente, sì, ma perché, come dicevo prima, perché le persone a quell'età non si accontentano della chat online, magari è così, cioè lo fanno anche, però quando hanno una persona accanto che entra in casa e giusta le cose, magari hanno più voglia di fare una chiacchiera, di condividere, ecco, un momento, una riparazione, qualcosa, no, è così, io dico dalla trentina in su, anzi più si sale meglio è. Dalla trentina in su fino a che livello, però, fino a che livello, diciamo, di attempatezza? Fino a 60. Vabbè, io l'ho detto, ci ho avuto e ho una relazione con una donna di 59 anni, una cliente, ci vediamo di tanto in tanto, che siete ormai quasi fidanzati, diciamo. No, assolutamente, è una cliente che mi chiama di tanto in tanto. L'altro ieri sono stato a casa sua, mi ha trattenuto fino a tardi. Che problema c'era? Che problema idraulico c'era? Alcuno, nessuno. Era, aspetta, una scusa ce l'ha messa, però adesso non ricordo. Però dovevamo fare in fretta perché doveva arrivare il fidanzato. Sì. E quindi, diciamo, ti ha chiamato per darsi una scaldatina prima che arrivasse il fidanzato, cioè strano. Sì, e devo dire che era molto affascinante, bellissimo. Ti ha detto facciamo svelte e fra un po' arriva il fidanzato. Certo, veramente. Bellissima, aveva un abito blu fino sopra il ginocchio, delle scarpe alte. Cioè, sarà conciata, si veste sempre panna, bene. Sì, in abbinamento perché è bionda, quindi ombretto blu e deodì. Vabbè, sarà conciata perché aspettava il fidanzato, che discorso. Sì, sicuramente. Bellissima, no, è veramente. E quando sei andato via che ti ha detto? Ciao, sbrigati che fra un po' arriva lui. No, non mi lasciava andare via, perché io scendevo le scale e lei mi chiamava e mi correva dietro per dicendo tipo: "Ah, ma poi ricordati che devi controllare, lo so, il cronotermostato". Ok, sì, devo andare. Poi in altri due scalini scendeva: "Ah, ma poi ricordati che devi venire per vedere quell'altro tubo che c'ha una cosa che", insomma. Vabbè, comunque tipo 5 minuti sulle scale, sì. Sì, però tu, ecco, quanto ti costa in termini di lavoro, diciamo, un'uscita dalla routine così? E tu quante caldaie avresti potuto aggiustare veramente, quanti lavandini aggiustare veramente? Il fatto è quello. Due ore di lavoro per te sono soldi alla fine. Il fatto è quello, è che, come dicevo appunto, è un lusso, periodo, è un lusso che ti permetti. In questo periodo io scappo, cioè, perché devo fare veramente tante cose durante la giornata e non ho il tempo necessario per fare tutto, anche le cose aggiuntive, non ce l'ho. When they kick at your front door, how are you gonna come? With your hands on your head or on the trigger of your gun. When the law break in, how you gonna go? Shot down on the pavement, or waiting on death row. You can crush us, you can bruise us, but you have to answer too. Oh, the guns of Brixton. Money feels good, and your life you like it well. But surely your time will come, as in heaven, as in hell. You see, he feels like Ivan, born under the Brixton sun. His game is called surviving. At the end of the harder they come, you know, it means no mercy. They caught him with a gun. No need for the Black Maria. Goodbye to the Brixton sun. Can bruise us, yeah, even shoot us, but oh, the guns of Brixton. Shot down on the pavement, waiting in death row. This game's called surviving, as in heaven, as in hell. You can bruise us, but you have to answer to. Avvertono i signori passeggeri che il treno effettuerà una breve sosta per le informazioni sul traffico. Restate in ascolto. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta... Il treno va. Si pregano i signori passeggeri di abbassare la suoneria del cellulare per non recare disturbo agli altri viaggiatori. Per quello dico, dovete accontentare i clienti, nel senso di non di fare tutto ciò che dicono, però di comunque di accontentarli se ti chiedono di fare di svitargli la lampadina perché non gli funziona, fatelo. Oppure cioè anche l'extra deve far parte, diciamo, della professionalità dell'idraulico. Questo abbiamo capito. Vabbè, anche il cliente, la cliente che ha voglia di fare due chiacchiere, fatecele. Ovviamente non ci passate la giornata intera, però datevi dei tempi diciamo di realizzazione. Fate delle cose svelte, però fatte bene, ecco, svelte ma ben fatte. Questo è il motto dell'idraulico, è svelto ma ben fatto. Sì, la sveltina ma ben fatta, così deve essere, diciamo, l'operazione. Guarda, ti dico, una volta mi successe, avevo un dipendente che era ancora uno che c'era con mio padre, quindi una persona di 63 anni, stava facendo un lavoro in un appartamento dove c'era questa signora, il marito era a lavoro, carabiniere, e andai alla ferramenta per comprare, adesso non ricordo, sarà successo 4-5 anni fa, tornai e vidi praticamente questo mio dipendente che stava facendo un massaggio a questa signora che era sdraiata sul tavolo della cucina. No, fammi capire, no, tu sei tornato a casa, sì, del cliente. Sì. La signora stesa sul tavolo di cucina e, sì, e il ragazzo rumeno era o italiano? No, italiano. No, ma no, non perché discrimino, ma per capire esattamente. Lei era stesa, certo, e lui la massaggiava. Sì. E lei era vestita o ignuda, tanto per capire? Era con una vesta molto succinta, leggera, perché era comunque estate. Un negligé aveva e lui la massaggiava, l'è stesa proprio sul tavolo. Sì, stesa sul tavolo. E lui sopra che la massaggiava. Sì, non mi sono fatto vedere perché mi sono sentito proprio imbarazzato in quel momento, ma perché conosco bene il marito e quindi non ci ha provato con me, evidentemente per quello. Ci ha avuto un quindi, po' di... Diciamo, attenzione, quando tornate a casa, mariti, in ascolto, se è passato l'idraulico, date un'occhiata al tavolo, se vedete qualcosa di diverso sulla tovaglia, nella disposizione delle briciole, così, pensate che qualcuno... Ma perché sul tavolo? Poteva stare su un divano, sul letto? Ti spiego il motivo, allora, perché questo mio dipendente prima lavorava in una clinica termale. Ah, un fisioterapista, eh. No, faceva sempre l'idraulico. Ah. Però praticamente, a quanto ho capito, quando c'era scarsità di personale anche in quel settore lì, lo mandavano a fare i massaggi. A fare i massaggi. E quindi imparò a fare i massaggi. Cioè, quando finivano i fisioterapisti, chiamavano, sì, l'idraulico, questo, posa un attimo la chiave inglese. Sì. C'è una cliente, devi fargli il massaggio, e si adattava. Sì. Ma lui si divertiva. Cioè, grazie. Cioè, meglio mettere le mani addosso a una signora che metterle sulla stoppa e il teflon per chiudere i rubinetti, quindi va bene, certo. Sì, praticamente io ho chiesto a lui e lui mi disse che questa signora gli chiese un po', sai, parlando, perché un poi massaggio lo rilassante, una, rilassante. Quando lo noti quando una persona vuole parlare. Certo. E allora lui gli disse: prima lavoravo in questa clinica termale, all'occorrenza facevo anche i massaggi. E quando gli ha detto quello, si è stesa sul tavolo. Ha detto: no, ma io c'ho una cervicale, certo, c'ho un dolorino qua, mica, certo, mi puoi a quel punto potrà dire qualunque cosa, anche faccio il ginecologo come secondo lavoro. Sul tavolo ci si mette allo stesso a quel punto. Non sembri discriminatorio questa mia frase, ma di fronte a una testimonianza così diretta non posso che pensare questo. Sì, vabbè, ma lui, allora, conoscendo questa persona, veramente, guarda, è molto serio. Sì, ma una serissimo. Persona veramente serissima, cioè, ma una brava persona, amante della natura, amante, cioè, veramente come pochi. Quindi lui, diciamo, nella borsa insieme a tutto, diciamo, le colle, i sigillanti, il silicone, così si porta anche le creme per fare i massaggi. Sì, ma guarda che io ero... O glielo fa col silicone? No, non credo. No, siccome no, appiccica, no, appiccica. No. Anzi, no, sì, però c'è quell'affare che unge, ogni tanto lo usate, c'è un attrezzo, sì, una cremetta lì che è una specie di grasso che voi usate ogni tanto. Allora, come ti dicevo l'altra volta, con quello si fanno i massaggi, no? Sì, che il lavoro idraulico, guarda, è molto, quando si parla di idraulica, è molto ambiguo, perché quando noi per esempio infiliamo i tubi l'uno nell'altro, certo, c'è il tubo maschio e il tubo femmina, chiaro, e ci si mette la... Quella roba gialla che è? La scivolina. La scivolina, oh, vedi, mi viene il nome. La scivolina. Quindi l'idraulico, l'idraulico ha sempre con sé un vasetto di scivolina. Che sul barattolo di scivolina alcuni marchi scrivono gel e lubrificante. Certo, che è uguale. È una cosa, guarda, a me mi succede spesso, io appoggio la scivolina da una parte e la signora dice: ma che cosa ci fai con questo? Sì, perché è uguale, diciamo, al lubrificante Durex che pubblicizzano in televisione, che è sempre un gel. E poi quando spieghi il funzionamento dei tubi, che solitamente... Come si infila il tubo maschio nel tubo femmina? Nella femmina, oppure... Sono tutte attizzate. I raccordi idraulici, che sono filettatura maschio, filettatura femmina, che e vedi già, è un discorso che già le fa attizzare. Diciamo che quando io sto a riparare qualcosa, a fare un lavoro con un dipendente, solitamente mi sentono parlare e poi mi dicono: ma perché dite sempre maschio, femmina? Vabbè. E io gli dico: ma che femmina, perché? È la base, però, è la base di ogni mestiere. Sì, perché dico, il maschio va nella femmina, è chiaro, no? Vabbè, ma questo, sì, anche noi alla radio, c'è il jack maschio che si infila dentro il jack femmina, è normale. Sì, Però quando lo fai in casa, avanti una casalinga che dice fammi capire che cosa significa. Vabbè, lo fa apposta, dai. Sì. Dice fammi vedere sto tubo maschio come è fatto. E prepara la scivolina, dai, una cosa da film di Alvaro Vitali, te l'ho detto io. Alla fine finiamo lì, dai. No, guarda, allora io ero piccolo quando è successo questo fatto, cioè sarà successo 5 anni fa, cioè avevo 23 anni. E sei rimasto, diciamo, sei stato colpito. La tua giovinezza è stata traumatizzata da questa cosa. Sì, poi seppi che praticamente si sono lasciati dopo un anno da lì, si sono separati, e poi siccome lo conosco il marito mi disse che questa aveva una tresca con un altro, non so... Si è che ha trovato tracce di scivolina dove non doveva trovarle. Vabbè, ma non diciamo che sono così solo gli idraulici, io credo che siano così anche... altri che vengono in casa a fare queste cose. I commercialisti mica c'hanno la scivolina, o gli avvocati, o che ne so, i falegnami, che è un altro discorso. L'idraulico ha tutta l'attrezzatura necessaria per creare quel clima di ambiguità. Dai, ti lascio lavorare, non ti voglio far perdere tempo, che io scendo. A presto, grazie, bene, bocca al lupo. Okay, ciao. My staring at the sacred word across the needle. Si ricorda che è attivo il servizio di prenotazione via mail all'indirizzo il treno va @radio24.it.